Sicuramente mi ha colpito questa sua energia incredibile che fin da giovane lo ha abitato e questa consapevolezza di questi fenomeni fisici dei quali non c'erano prove, anzi tendenzialmente le prove andavano contro a Marconi, o diciamo grande pensiero accademico, ufficiale, e invece lui questa fede incredibile in questa sua vocazione, in questa sua intuizione per la quale ha lottato. Anche lì forse c'era proprio una sorta di gap generazionale, no? Nel senso che lui faceva parte dei giovani furibondi. Ci mettiamo anche Tesla in mezzo, ci mettiamo queste persone che hanno veramente avuto delle visioni in qualche modo. Però la grande capacità di Marconi, che è giovanissima, 21 anni, fa questo esperimento, riesce a trasmettere dati senza fili, e quindi poi il telegrafo senza fili, cioè a 20 anni. Quindi non era neanche lui in grado bene di spiegare perché credesse in quello, in ciò in cui credeva. E questo mi ha colpito tantissimo. Era come se ci fosse un'intuizione che lo abitava, che andava al di là di quello che la logica poteva suggerire, ma non era un'intuizione, so suonare la chitarra, voglio fare dei concerti, no? Sento che le mie canzoni avranno successo. Era un'intuizione su qualcosa veramente di invisibile e di inconosciuto anche. Quindi questa sua grande fede in se stesso e nella scienza, fondamentalmente. Certo, era giovane all'epoca, però ha continuato ad averla per poi a 50 anni brevettare la radio senza fili. Ne ha fatte di cose puntando veramente sull'invisibile, ecco. E questa cosa mi ha molto colpito. E mi ha anche molto colpito che in seguito abbia continuato ad essere quello che oggi potremmo definire un grande talent scout, cioè ha continuato ad essere il principale sponsor dei ragazzi di Via Parisperna, per esempio, che in ambito fisico erano dei geni e tutti in età giovanissima. Come se per lui è stato anche un grande imprenditore, è stato anche molto attento a far sì che il suo ruolo pubblico avesse importanza e autorevolezza, ma forse proprio perché non era un uomo di potere in un certo senso, ecco, non era un uomo che legava rapporti con il potere, era abbastanza solo in fondo Marconi, ed è vero anche che viveva su una barca, questo la dice abbastanza lunga, no? E con quella barca poi tanto partiva e stava in giro per il mondo per mesi, cioè aveva tante cose da fare, però sicuramente aveva delle relazioni, ma erano secondo me di una natura spesso legata alle sue grandissime capacità professionali e di intuizione proprio scientifica. Quando noi lo raccontiamo è un po' la seconda parte della sua vita, la sua seconda vita, no? Con la seconda moglie, con questa figlia piccola, mentre invece più grandi erano già, facevano parte di una sua vita precedente nella quale io credo lui avesse un po' rimpianto in età matura di non essersene occupato abbastanza. Era un uomo proprio devoto alla sua scienza e alla sua professione, insomma, da quello che si evince. Quindi sicuramente, secondo me, è stato ipercinetico. Era sicuramente un uomo che si muoveva tanto, che faceva tante cose, era un uomo anche molto deciso. Io credo che quando a un certo punto tu riesci a realizzare l'impossibile e la realizzazione di quell'impossibile ti rende l'uomo più famoso della Terra, questa cosa in qualche modo anima, se non il tuo pensiero, anche il tuo inconscio. Io credo che lui avesse una grandissima, a livello mentale, una grande, come dire, sicurezza anche nell'andare avanti, nell'andare sempre oltre. Non era una persona che interloquiva per avere opinioni, era un uomo che interloquiva per indicare una direzione, perché aveva spesso ragione, se non quasi sempre. Aveva una linea, un binario molto preciso, e quindi aveva sempre delle direzioni molto chiare. Non era un uomo di esitazione, non era un uomo di dubbio, ecco. Invece, qual è stata la difficoltà, se c'è stata, nell'interpretare Marconi? Era anche un uomo piuttosto di charme, nel senso che era un uomo che badava molto anche al suo aspetto esteriore, aveva sempre la tenuta adatta al contesto adatto. La difficoltà era di non renderlo troppo, appunto, meccanico in questo suo decisionismo, fra virgolette. Più che la difficoltà di interpretarlo è stata proprio, ci siamo subito posti la domanda di creare un contesto intimo e uno pubblico, che fosse chiaro. Però siccome l'apertura è da subito abbastanza intima con sua moglie, il salto invece avviene al contrario, cioè lo vediamo in un contesto intimo e poi lo vediamo nel contesto pubblico, dove gode di una grandissima, era uno degli uomini sicuramente in Italia la persona più famosa che esisteva, ma se non l'uomo più famoso del mondo, uno dei più famosi del mondo, ed è rimasto così per tanto tanto tempo, insomma. Quindi c'era questo dualismo che ci interessava molto portare in scena, ecco. Visto che di recente, insomma, si è parlato anche un po' del rapporto tra, appunto, potere, televisione, censura, ma allora, la tua opinione, visto appunto che in qualche modo la serie la tocca? Noi, riguardo, l'abbiamo messo in scena, è uno dei punti della serie, no? Proprio il suo rapporto con il potere che si deteriora strada facendo. Poi ci sono altre cose che noi non abbiamo raccontato, ma su certe cose lui era profondamente critico, cioè lui era affascinato da, sicuramente dal modernismo. Mussolini è andato al potere, il suo partito praticava violenza, questo lo sappiamo. Allo stesso tempo era anche il partito di una nuova generazione, cioè i politici che c'erano prima erano in tutto e per tutto ancora degli uomini dell'Ottocento. C'è stato un vero cambio generazionale in quel momento, no? Non è un caso anche il libro di Scurati, Il figlio del popolo, come sottotitolo, cioè è cambiato qualcosa. Quindi, mentre prima Marconi già fece fatica a depositare i suoi brevetti, non riuscì a depositare i suoi brevetti in Italia, dovette andare in Inghilterra. Quando poi Mussolini sale al potere, comincia a corteggiarlo in un modo incredibile. Io credo Marconi si è visto corteggiato, gli hanno detto che lo avrebbero riconosciuto in ogni modo. I venti di guerra erano ancora lontani, lo dico perché lui poi è stato sempre molto critico rispetto a questo aspetto, per quanto tra l'altro gli chiedono di fare ragione della morte, cosa che lui non ha mai portato avanti. E non solo, cioè gli danno carta bianca veramente, cioè per rimodernare il paese. Lui era anche un uomo d'affari, cioè lui aveva anche la Marconi Company in Inghilterra, che non solo faceva software, come diremo, ma anche hardware. Quindi credo che abbia visto una grande occasione sia di ammodernare il paese, ma anche di prestigio e anche di stabilità, perché io credo che comunque in fondo lui un po' si sentisse apolide. Cioè lui era italiano, nato e cresciuto qua in Italia con una mamma irlandese, però ha dovuto brevettare le sue cose in Inghilterra, che era un paese in qualche modo familiare, ma non era il suo paese, e aveva creato la sua compagnia lì, che da un lato magari gli conveniva, ma dall'altro credo che in qualche modo gli mancasse un po' un tassello, che era quello della sua patria. Poi però, ecco, secondo me noi abbiamo raccontato questo aspetto del rapporto conflittuale con il potere. Lui creò quest'asse con il Papa, che lui conosceva da quando era vescovo, perché lui in fondo era pacifista, Marconi. Cioè adesso questa parola suona strana detta oggi. Sicuramente Marconi, la memoria di Marconi, che non è così presente, anche perché lui poi paga, anche giustamente, questo rapporto che ha avuto con il fascismo. Però secondo me è stato un po' generico il modo in cui è stato raccontato il suo rapporto con il fascismo. Cioè c'erano molti aspetti per i quali lui era critico, e crea questo asse con il Papa, al quale tra l'altro effettivamente crea anche questo telefono ad onde corte, inintercettabile, ed era un telefono in due direzioni funzionava la comunicazione, il primo al mondo tra l'altro. Quest'asse col Papa gli dava un minimo di forza, anche se poi a un certo punto non gliene dava più abbastanza. Però il famoso raggio della morte, lui, c'è solo una testimonianza della Petacci, che era in macchina con Mussolini in una colonna di automobili. Le automobili si fermano e lei chiede a Mussolini che cosa stia succedendo, e lui dice, un po' enigmatico, sono gli esperimenti di Marconi. A me sembra poco, cioè se uno come Marconi si fosse messo a lavorare sul raggio della morte, avrebbero saputo gli inglesi, gli americani, i francesi, cioè i servizi di spie in quel momento lì lavoravano come i pazzi. Quindi mi sembra strano che non ci sia una letteratura in merito. Quindi questa era anche un po' la sua ribellione al potere, e non solo, hanno cominciato a tagliare i fondi a Panisperna, hanno cominciato veramente, poi li hanno tolto praticamente, hanno svuotato le sue cariche del potere effettivo piano piano. Quindi diciamo che era un uomo che, essendo un uomo libero in un certo modo, creava fastidio, perché non faceva quello che gli veniva richiesto. Ma non erano quelli i patti all'inizio, ecco.